ad alta voce, edizione 20 anni. Valentina Carnelutti legge Il ritratto di Sarah Malcolm di Ginevra Bompiani. 7ª puntata. La sentenza. Io sento le calunnie della folla, terrore all'intorno. Tengono consigli contro di me, si accordano per uccidermi. Salmo 31. La corte era pienissima ed erano presenti Sua Grazia il Duca di Montague, il Conte di Albemarle, Lord Glenarchy e molte persone di qualità. La giuria si ritirò per circa un quarto d'ora per elaborare il verdetto e quando tornò la prigioniera fu portata di nuovo alla sbarra. Il cancelliere chiamò i giurati uno per uno per nome ed essi risposero. Cancelliere: signori della giuria, avete raggiunto un verdetto? Giuria: sì. Cancelliere: chi parlerà per voi? Giuria: il primo giurato. Cancelliere: Sarah Malcolm, alzate la mano. Voi della giuria, guardate la prigioniera. Che cosa dite? È Sarah Malcolm colpevole del crimine omicidio di cui è accusata o non colpevole? Presidente della giuria: colpevole. Cancelliere: ed è colpevole dell'inchiesta dell'ufficiale giudiziario o non colpevole? Presidente della giuria: colpevole. Cancelliere: quali beni, mobili o immobili possedeva al momento del crimine e omicidio commessi o in qualunque momento da allora a vostra conoscenza? Presidente della giuria: nessuno. Cancelliere: ascoltate il vostro verdetto così come la corte lo ha recepito. Voi dite che Sarah Malcolm è colpevole del crimine e omicidio di cui è accusata e che è ugualmente colpevole dell'inchiesta dell'ufficiale giudiziario. E voi dite che non possedeva nessun bene, mobile o immobile, al momento del detto crimine e omicidio commesso o in qualunque momento da allora a vostra conoscenza. E così dite tutti. Udendo il verdetto, cadde in convulsioni. Ma quando si riebbe fu portata di nuovo alla sbarra e le fu chiesto se aveva qualcosa da dire in sua difesa, a cui rispose: no. La sentenza fu pronunciata per tutti i prigionieri esaminati l'indomani 24 febbraio alla fine delle sessioni. Erano stati giudicati 73 accusati e ne furono condannati 54, dei quali Sarah Malcolm e 9 altri a morte. Fra questi c'era George Dawson, di 14 anni, condannato per aver rubato in un negozio 22 paia di calze per bambini del valore di 5 scellini e 6 pence e una sottoveste di lana. William West, di 16 anni, condannato per furto con scasso. Un giovane di 21 anni, colpevole di aver assalito e derubato un uomo della somma di 3 scellini e mezzo penny e una donna di 6 pence. William Chamberlain, detto Cocky Chambers, bandito di strada. Degli altri 44, uno fu condannato alla mano bruciata e 43, di cui 16 donne, alla deportazione. Successivamente George Dawson, in considerazione della sua giovane età, fu graziato dal re e la sua pena commutata in deportazione. Per i 9 condannati a morte, il luogo dell'esecuzione sarebbe stato quello abituale di Tyburn, ma per Sarah, vista l'eccezionale gravità dei suoi crimini, fu deciso che sarebbe stata impiccata separatamente, mercoledì 7 marzo, in Fleet Street, di fronte a Temple Gate, perché la popolazione del Temple potesse assistere. Dopo la sentenza, dopo che sarò stata per qualche tempo a giacere nella mia tomba, la verità verrà fuori. Sarah Malcolm. Dopo la sentenza, Sarah dichiarò di essere di fede cattolica Se non lo aveva detto prima, era stato probabilmente per non aggiungere un altro elemento a suo carico. Acconsentì però a seguire il rito anglicano e dichiarò che nel giorno dell'esecuzione voleva ricevere il sacramento da un ministro della Chiesa d'Inghilterra. In chiesa si comportava con grande devozione e penitenza, pur continuando a negare ogni responsabilità nel delitto. Di questa devozione ci assicura il reverendo Guthrie, ordinario di Newgate, che afferma di averle impartito le stesse esortazioni di cui godevano tutti i condannati, sebbene lei fosse di fede cattolica, e che lei, in queste occasioni, si comportava sempre con molta decenza e rispondeva a tono, tranne una volta quando se ne restò seduta in silenzio per tutto il tempo, leggendo un suo libricino. E poi ci fu una domenica, quella che precedette la sua morte, quando l'ordinario, durante la funzione, superò se stesso nel fornire esempi della vendetta divina contro gli assassini, raccontando del delitto di Caino contro il giusto Abele, e Sara si mise a piangere e singhiozzò disperatamente, senza spiegare però se piangeva per rimorso e pietà delle sue vittime o di se stessa. Poiché Sara si trovava nella cella dei condannati e non nelle celle comuni, aveva il diritto, riservato solitamente ai prigionieri più privilegiati, di prendere l'aria nel Press Yard, un cortile posto nella parte alta di Newgate, accanto alla camera di tortura. Là riceveva i suoi visitatori. A certi gentiluomini che vennero a incontrarla e insistevano perché facesse una franca confessione dei suoi delitti, rispose con calore: «Dopo che sarò stata per qualche tempo a giacere nella mia tomba, la verità verrà fuori». A gente di qualità che le chiedeva se aveva proprio stabilito e deciso dentro di sé di non fare altre confessioni, rispose che, poiché non era coinvolta nel delitto, sperava che Dio avrebbe accettato la sua vita in espiazione dei suoi molti peccati. La domenica precedente l'esecuzione, verso le 6 del pomeriggio, mentre un po' di gente era con lei nella cella, cadde in uno stato di angoscia dolorosa che durò qualche tempo, con ogni immaginabile segno di panico e di terrore. Uno dei custodi entrò e disse: «Sara, che cosa c'è? Che cosa è successo che ti ha messo in questa agitazione?» Rispose che le avevano detto in cappella che sarebbe stata impiccata in Fleet Street, in mezzo a tutta la gente che conosceva, e questo le aveva dato una sofferenza inesprimibile. Il custode scosse la testa. «Ho paura, Sara, che questo non sia vero. Quando è arrivata la sentenza di morte, io ti ho informata che saresti morta là. Perché dovresti sorprenderti adesso? Dai retta a me, fai una piena confessione e ti sentirai molto meglio». Ma lei a questo non rispose. Quando il bellman venne a Newgate con la sua campanella per dare notizia ai prigionieri che dovevano morire lunedì, qualcuno chiamò Sara e le consigliò di ascoltare quel che diceva. Lei guardò fuori dalla finestra e appena lui ebbe finito lo chiamò. «Mi sentite, Mr. Bellman? Ordinate una pinta di vino e io vi butterò uno scellino per pagarlo». E così fece. Domenica sera, verso le 10, chiamò Chambers, che si trovava in una cella di fronte alla sua finestra e doveva morire il giorno dopo. Lo invitò a farsi animo e gli chiese se voleva che pregasse insieme a lui. Chambers rispose: «Fallo, Sara, con tutto il nostro cuore». Lei cominciò a pregare fervidamente e continuò per quasi tutta la notte, finché le sue candele si spensero. Allora lo esortò a non dormire, ma a pregare Dio di perdonare i loro peccati. «Il tuo tempo», disse, «è breve come il mio, e vorrei potermene andare insieme a te. Quanto all'ignominia del tuo destino, non lasciarti turbare da questo. Solo gente volgare getterà discredito su di te o la tua famiglia. Buoni padri possono avere figli infelici, e figli devoti possono avere genitori indegni. Nessuno può rispondere dell'altro. Per quanto riguarda la rapidità della tua morte, pensa che abbiamo avuto il tempo di chiedere perdono». Finita la predica ai suoi infelici compagni, chiuse la finestra e si stese sul letto. Il ritratto. The pains that people who have a mind to be named are forced to take to be very particular would convince you how difficult it is. I dolori che le persone che pensano a essere ricordate sono costrette a patire per essere considerate davvero eccezionali vi convincerebbero di quanto sia difficile lasciare un'impronta duratura in una città come questa. Ministri, scrittori, virtuosi, sciocchi, patrioti, puttane, difficilmente resistono a una seconda occhiata. Ciò che al caffè Pannoni durerebbe 12 mesi, qui viene dimenticato in 12 ore. Good night. Horace Walpole, diario, 1748. Due giorni prima dell'esecuzione, lunedì 5 marzo, il famoso pittore e incisore William Hogarth chiese e ottenne di fare in carcere il ritratto di Sarah Malcolm. Lo accompagnava il suocero, Sir James Thornhill, pittore di corte, padre di Anne, la ragazza con cui William era fuggito appena 4 anni prima. Per un anno il vecchio pittore si era rifiutato di riconoscere la coppia, poi aveva finito col cedere e così ora poteva introdurre il suo pupillo in carcere, come già lo aveva introdotto a corte, dove Hogarth si era legato al principe di Galles, che a sua volta lo presenta alla propria loggia massonica. Di presentazione in presentazione, Hogarth diventa il più celebre testimone e beffeggiatore della vita di Londra, dal suo cielo al suo inferno, con una preferenza per l'inferno. Vi è una ragione particolare perché Sir James sia il Virgilio dell'inferno di Newgate. Qualche anno prima, Thornhill aveva ritratto in carcere il famoso Jack Sheppard, il bel bandito di strada, galante con le donne ed esperto in evasioni, quello stesso che 4 anni dopo, col nome di Macheath, diventerà insieme a Jonathan Wilde un personaggio dell'opera del mendicante di Gay e poi del quadro di Hogarth tratto dall'opera di Gay, per ripresentarsi 2 secoli dopo in compagnia di Mackie Messer nell'opera da 3 soldi di Brecht. Così Hogarth aveva già seguito le orme del suo maestro dietro a un condannato. Jack Sheppard fu giustiziato nel 1724, un anno prima di Jonathan Wilde. Thornhill ritrae Sheppard poco prima dell'esecuzione e lo mostra bello, malinconico e valoroso. Il suo ritratto desta pietà e ammirazione. Lo sguardo di Hogarth su Sarah sarà, come sempre, nella sua pittura, molto diverso. L'anno prima, 1732, Hogarth aveva lanciato una sottoscrizione per una serie di incisioni dal titolo La carriera della cortigiana, The Harlot's Progress. Questa serie di 6 dipinti verrà acquistata nel 1745 da William Beckford, l'autore di Vatek, e andrà per sempre perduta nell'incendio che il 12 febbraio 1755 bruciò la famosa villa di campagna di Beckford, Font Hill. L'anno successivo ai nostri fatti, 1734, Hogarth aprirà la sottoscrizione per la sua serie più famosa, La carriera del libertino, The Rake's Progress. In questo periodo il celebre incisore si trovava dunque fra 2 progetti simili che differiscono fra loro nel sesso dell'eroe e nella sua condizione sociale. Il personaggio di Sarah Malcolm si trova preso fra questi 2 progetti. La sua carriera è rapida e si conclude tragicamente, ma non è una cortigiana e neanche un libertino. Forse Hogarth pensò di utilizzarla perché in carcere fece di lei uno schizzo a matita da cui trasse un'incisione e poi un secondo ritratto a figura intera. Ma Sarah non rientrerà in nessun progetto né darà vita a una serie. Forse non è esemplare, è unica e incomprensibile. Il ritratto a olio verrà comprato da un ragazzo di 16 anni che lo pagherà 5 sterline e 5 scellini e lo appenderà poi nel gabinetto privato della sontuosa dimora di Strawberry Hill, che spenderà la vita a ingrandire, adornare, riempire e abbellire. Horace Walpole, secondo Sir Frank Douglas Mackinnon, fu lui a chiedere a Hogarth di dipingere il ritratto, figlio del molto discusso ministro Sir Robert Walpole, invece di darsi alla politica, era un esteta e uno scrittore. E alla fine rimarrà famoso non tanto per tutte le bellezze accumulate o per gli scritti sapienti, ma per un fortunato romanzetto, Il castello di Otranto, che inaugura la fiumana dei romanzi neri. Non è la prima opera di Hogarth che il giovane Horace acquista. ci terrà ad averle tutte. Nel 62 comprerà una versione dell'opera del mendicante e nel suo carteggio serpeggia la preoccupazione che ne manchi qualcuna. Il suo gusto per il pittore si sposa a un gusto macabro, segretamente perverso. In una lettera misteriosa di molti anni dopo, rifiuterà di separarsi da un'incisione particolare cui è legato per ragioni speciali. Mi piacerebbe che si trattasse di questa. Del ritratto di Sarah Malcolm parlerà nella sua descrizione di Strawberry Hill. Siede davanti a un tavolo a Newgate con un rosario cattolico davanti a sé. È stato dipinto da Hogarth il giorno prima dell'esecuzione e lei si era messa del rouge per avere un aspetto migliore. Il ritratto fu poi comprato all'asta di Strawberry Hill nel 1842 da Charles Kirkpatrick Sharp per 24 sterline. È appartenuto successivamente al generale Phipps, a Mr. James Hughes Anderton, a Sir Frederick Cooke ed è ora visibile alla National Gallery di Edimburgo. L'altro ritratto a olio di Sarah Malcolm, a figura intera, sarebbe stato in possesso di Josiah Boydell nel 1793 e del conte di Mulgrave nel 1833, dopodiché se ne perdono le tracce. Di questo secondo ritratto vi è però un'incisione, tratta da John Ireland e pubblicata nel suo Hogarth Illustrated 1791, che la mostra seduta al tavolo mentre scrive una lettera e guarda pensosa da un'altra parte. Per terra un anello. Oh, love is teasing and love is pleasing and love's a treasure when first it's new. But as love grows old, Valentina Carnelutti ha letto Il ritratto di Sarah Malcolm di Ginevra Bompiani, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio, tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce edizione 20 anni è un programma Rai Radio 3.